Purtroppo in cucina me la cavo malissimo, nel senso che so fare il caffè, poi so fare la pasta in bianco e poi basta. Io fino a Londra la mia unica priorità era il nuoto. Perché si parla di Mario che va a escort, Mario che ha le macchine belle, Mario che manda a cagare chiunque. Tutti convocati di Carlo Genta. Tutti convocati qui oggi alla conferenza stampa australiana di Alex Del Piero per parlare anche con il suo storico procuratore, magari per fare due chiacchiere sulla nazionale dei ragazzini e aspettando il derby, pare alle 17, pioggia permettendo, di New York tra Sara Errani e Roberta Vinci. Aspetteremo anche il gran premio, forse decisivo del mondiale, quello di domenica a Monza. Tutti convocati, 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Giacca grigia, rigatona, camicia bianca, fazzoletto nel taschino. Del Piero ha appena spiegato perché ha scelto l'Australia. Del Piero va a giocare coi canguri. Ehi, hey, come va piccolo? Sei sonnambulo, eh? Perché non torni a fare la nanna? Nanna! Continua il riposino. Cos'è? La canzone del canguro. Va bene, perfetto, è splendida. La guardiamo subito dopo la partita, ci stai? Ma io dopo il riposino guardo sempre la canzone del canguro. Adesso siamo ai tempi supplementari e fra poco battono i rigori. È una cosa che succede tipo ogni 10 anni. La canzone del canguro, la canzone del canguro, la canzone del canguro, la canzone del canguro! E va bene! Mandano lo stesso di Livio, attende chiaramente l'arrivo Ferrara, Sporrini, batte di Livio, attenzione a Del Piero, rete, rete, Alex Del Piero, la Juventus va in vantaggio alla 36esimo del secondo tempo, Juventus 1, River Plate 0, la rete di Del Piero, proprio lui il principino, porta in vantaggio la Juventus. Breve la ricrossa di Del Piero, fischiato Rizzoli. Parte Del Piero, Del Piero, rete, rete. Un gol ancora più bello rispetto a quello allo Zeni. Calcio di punizione, o Pirlo o Del Piero. Scommetterei su Del Piero. D'Amato dice che si può andare. Va Del Piero, Alex Del Piero! Doveva fare la storia la Juventus con la Lazio! La storia la fa sempre quest'uomo qua! Per la Juventus, la storia la fa sempre quest'uomo qua! Del Piero al 38esimo! Occasione anche per sentire un po' di musica australiana, Down Under questo, per chi ha la mia età se lo ricorda, Man at Work, Blue Sky di Sydney, solo per il nome io ci andrei di corsa, come sta per fare appunto Alessandro Del Piero. Oggi tutti convocati per salutarlo o per criticarne la scelta, come ha fatto ieri con me il mio amico Giuseppe Cruciani. Discussione con Cruciani che dice: no, ma secondo me deve andare in Inghilterra, l'ha cercato il Liverpool nelle ultime ore, ma in Inghilterra a fare che? Non c'è mica Bondi Beach per uno che ha 38 anni, 1,6 milioni a stagione per 2 stagioni. Secondo me ha fatto una grande scelta Alex Del Piero, ma quale manica! C'è però chi ha fatto questa scelta e questo viaggio verso l'Australia, magari tra meno fanfare. Beh, Bob Vieri, ce lo ricordiamo ai suoi tempi, poi Benny Carbone, un rapido giretto, forse una vacanza, Fabio Vignaroli, ma anche Valerio Ringoli, giovanile nell'Inter, un po' d'eccellenza, ora a Sydney, nell'altra squadra, quella che gioca in Serie B. Valerio, dall'Australia, buongiorno, ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti! Sei contento che arriva Del Piero? Siete tutti contenti? Ma sì, dai! Senti. Ma sì, perché comunque è un campione che verrà qui e sicuramente porterà interesse, maggiore interesse al calcio. Questo certamente. Io mi aspetto un boom del calcio australiano. Ma un boom non lo so, sinceramente, perché diciamo che il soccer, come lo chiamano qui, in Australia è considerato il quinto sport nazionale, sì. Beh, come da noi la pallavolo, per esempio. Magari scala la classifica. Speriamo. Speriamo. Senti, ma come si vive da quelle parti? Che vita fai tu da quelle parti? Qui si sta proprio bene, si ma sta da Dio, davvero. Sì, no, è pazzesco, cioè il livello della vita è altissimo. Sì. Si sta bene, cioè c'è sempre bel tempo. Qui adesso è inverno, cioè è appena iniziata forse appena finito l'inverno, e sono 27 gradi c'erano oggi, cioè una roba assurda, davvero. Cioè, tutto quello che si può sperare in una città come Sydney, perché è una città quindi tu strepitosa. Ti svegli la mattina, apri le finestre, c'è verde, c'è sole, vai ad allenarti, giusto? Vado ad allenarmi, poi alleno i ragazzini, sì. e poi ci si diverte, insomma, ci si gode l'Australia. Ci si gode l'Australia, anche perché lì alle 5 del pomeriggio si chiude tutto e si va a fare surf. Si chiude tutto, o alle 5 del pomeriggio o alle 5 della mattina, perché qua la cosa strepitosa è che alle 5 della mattina apri le porte di casa, vai in spiaggia e c'è un sacco di gente che fa sport, surf, corsa, mamme con i bambini col passeggino, una roba spettacolare da questo punto di vista. Senti, ma a livello del calcio qual è? Nazionale australiana, quando poi vincemmi i mondiali, te lo ricordi bene? Con il rigore di Totti, non mi sembra poi così scarsa, al di là di Grella Bresciano. La nazionale no, però il livello anche della A-League non è altissimo, ti dico la verità. Dal mio punto di vista sono molto indietro rispetto all'Europa. Da un punto di vista tattico, loro non curano per esempio la tattica, non sanno forse neanche cosa sia davvero. A volte rimanevo perplesso all'inizio, dicevo ma non è possibile, non prepariamo mai una partita. Loro è una battaglia, la partita è una battaglia. Poi chi mena di più, no scherzo, però è così, è molto diverso da noi, molto molto molto diverso. Beh, adesso arriva Del Piero, cambia tutto. Adesso arriva Del Piero, cambia tutto. Ci credi? Speriamo, neanche dai. Tu di sicuro non cambia la tua vita meravigliosa. No, io se trovo un mestiere da quelle parti vengo, vi seguo al volo. Vieni. Cercami una radio a Sydney dove io possa dire le mie stupidaggini. C'è anche una radio italiana che racconta storie italiane, che devi parlare in italiano, quindi non hai bisogno di portiamo lì tutti i convocati. Valerio, grazie. Grazie. Grazie a voi ragazzi. Ti invidio da morire. Grazie a Valerio Ringoli. Oltre agli SMS che ho già in gran numero, come questo, inutile dire che le lacrime stanno scendendo copiose. Grazie capitano Carmelo Milanese, oppure l'unica critica che la Juve ha trattato la sua bandiera come una vecchia ciabatta. Che peccato, ma questo è un discorso vecchio. Del Piero è andato in Australia perché lì non sanno giocare, lui adesso può solo giocare lì, scrive Roberto da Belluno. Oppure per me Del Piero è soltanto quello che mi ha fatto perdere un mondiale e un europeo, scrive un tifoso del Torino. Luca su Twitter, bravo Del Piero, un ottimo posto dove godersi il proprio lavoro, dove godersi la vita, caro Luca su Twitter. Ma adesso sentiamo ancora musica australiana per le parole di oggi, conferenza stampa di Alex Del Piero. È un giorno sicuramente speciale per me, diverso, e in questo senso andiamo subito al sodo. Sono felice di annunciare che poche ore fa ho firmato il mio nuovo accordo con il Sydney Football Club e quindi per i prossimi 2 anni sarò australiano, diciamo così. È un progetto, è una situazione, è un posto che non mi aspettavo, ma devo ammettere che tante squadre che non mi aspettavo mi hanno cercato, quindi non mi sembra opportuno chiaramente citarle, però è ovvio che un riferimento alle squadre italiane che, visto che ho giocato in Italia per tutta la mia vita, mi sembra doveroso, e quindi ringrazio tutte loro, come ringrazio quelli che mi hanno cercato da ogni parte del mondo praticamente. Sidney rappresenta una scelta diversa sotto tutti i profili, dal punto di vista calcistico, dal punto di vista umano e dal punto di vista della progettualità che è stata disegnata apposta su di me. E io di questo ne vado molto orgoglioso, e sicuramente quest'ultima è stata la forza trainante più importante rispetto a tutte le altre. Gli australiani Bee Gees, staying alive, ancora vivo in Australia, beato lui, Alessandro Del Piero, con una maglia blu e celeste, numero 10, perché quello sarà il suo numero anche in Australia. Giovanni, Milano, buongiorno. È un juventino di vecchia data. Lei la pensa come Antonio da Brescia, che mi scrive: Del Piero con i soldi che ha poteva andare in ferie 3 mesi in Australia, forse se voleva ancora emozionarsi giocando a calcio era meglio il Liverpool? Ma no, Del Piero è un grande, Del Piero doveva stare alla Juve. Fa che roba. Dovevamo mandare il presidente in Australia, forse. No? A proposito, la Juventus, che è stata in silenzio fin qui, ha mandato un tweet, lo sa? Ah, no. C'è scritto: in bocca al lupo a Del Piero per la sua nuova avventura. non ho parole come tutti i tifosi juventini, sì. Quelli veri. Mm? Sì. Del Piero doveva restare alla Juve, doveva restare finché poteva. Dovrei stare a fare il dirigente, dovrei stare a fare l'allenatore, no, magari tornerà o magari no. Da subito. Mandiamo via il presidente, facciamo una petizione immediatamente. Basta guardarlo in faccia, ma quello non è un presidente, è un non so. Beh, insomma, è il presidente del nuovo scudetto. Sì, vabbè, ma voglio dire, non è neanche l'unghia del suo parente mitico, cioè, zero. Beh, insomma, Del Piero. Vorrei che facessi. Dica. Io lo vedo un po' come il Moratti della Juve, insomma, ho paura. Ah. Ecco. Ma che faccia scelte sbagliate. Intanto ci ha messo un po' di meno a vincere uno scudetto. Posso sì, no, trovare sì. Subito una differenza che è questa. Ma perché la Juve è la Juve, non è l'Inter. Comunque. Senta, la faccio piangere ancora un po'. Del Piero sta ancora parlando in diretta. Sentiamo. Sì, benissimo. Sentiamo cosa dice. Al quale io sono comunque affezionato. È una scelta portata anche dalla casualità, e la cosa bella è proprio questa, che alla fine ci si ritrova qui, di conseguenza è una nota, una ciliegina sulla torta, diciamo così. Due curiosità. Quando è che hai capito che non avresti più giocato nella Juventus, e i rapporti con Andrea Agnelli come sono? Un giorno c'è la possibilità che tu possa tornare a lavorare. E così Giovanni è contento. Eccolo qua. Senta. Riferimento a quello che è il mio cuore, naturalmente, che tiferà in bianco e nero, non voglio dilungarmi in altri discorsi. Oggi è un giorno dedicato a una squadra, ad una città, a un paese, a un continente diverso. E così deve essere. Ho ribadito, e lo sosterrò sempre, che il mio affetto nei confronti di quello che rappresenta il mondo juventino non termina certo oggi, non è terminato neanche quel giorno che ho capito che non giocavo più nella Juventus, o neanche altri giorni nel corso della mia carriera, per un semplice motivo: perché ho dato tutto e di più di quello che potevo dare, e poi, come tutte le cose, bisogna sempre uscirne felici di quello che è stato. Voglio sottolineare. Va bene, voglio ricordare. Abbiamo capito, caro Giovanni da Milano, la saluto, grazie, e saluto anche e ringrazio il primo storico procuratore di Alessandro Del Piero, Claudio Pasqualin. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. buongiorno, è un piacere essere qui, il momento è particolarissimo, devo confessare di aver provato una certa emozione nel sentire Ale dire le cose che ho appena, che tutti abbiamo appena sentito. Senta, ma ha fatto bene, no? Cioè altro che Inghilterra, sì, sì, guarda, altro che Portogallo, sì. Braga, eccetera, eccetera. Ma che è una decisione proprio alla Del Piero. Bravissimo, diciamo, alla Del Piero, infatti. Alla Del Piero, come... È una decisione fantastica, direi, come fantastiche erano le sue parabole, e non solo quelle, peraltro, perché tirava certe stecche dritto per dritto, però le parabole, no? Nel sette là ce le ricordiamo tutte, fantastiche come questa decisione. Insomma, sì, no? Sono d'accordo, è rimasto fedele al suo personaggio, cittadino del mondo. Ma un personaggio, certo. Non ci va gratis poi, perché Unione Sesto Giovane. No, ma guardi, se è per quello, lui all'epoca firmò... Ecco, mi racconti il suo primo contratto. Me lo racconti. Il primo contratto non ha molto significato. Quello che ha contratto, che ha significato, è quello che fu definito, perché eravamo alle soglie del 2000, il contratto del millennio. Sì. Quello fu firmato e resterà, sì, fu firmato appunto nel 99, giugno 99, il giorno 30 giugno, per la precisione, il giorno dopo Ale sarebbe stato libero di accasarsi dove avesse voluto, e quindi spuntò delle cifre fantastiche allora, tanto da far definire quel contratto quello del millennio. Sì. E ora lui prende una decisione che è in linea, insomma, no? Perché andare, che ne so, nelle Americhe o in Africa era banale. In Antartide non si gioca, Antartide quindi, no. Quindi è andato nel nuovo continente, e io credo che l'Australia veramente riscoprirà con lui cos'è il calcio, insomma. E noi tra l'altro tra un paio d'anni ci ritroveremo un dirigente con un'esperienza agonistica unica. Lei dice alla Juventus? Io dico di sì. Alla Juventus? Io penserei di sì, però nel contesto calcistico lui può fare dal presidente della federazione agli allenatori degli esordienti della Juventus e decide. Però a un uomo con, più che un atleta, no? Perché allora si parlerà di uomini. Se dovrà appendere, certo. Prima o poi lo farà, tanto non le appende, magari impara a fare surf a Bondi Beach, che le assicuro non è un brutto posto. Anch'io lo so bene, perché l'anno scorso sono stato lì. Ecco, se organizza un viaggio lo andiamo a trovare, lo andiamo a trovare insieme, però paga Del Piero. Volendo potrebbe farlo. Intercederò per lei, insomma. Sarà dura anche per me, però dovrò passare attraverso Stefano, suo fratello. Ecco, lui è un osso duro, sì. Senta, avvocato, lasciando stare Del Piero, vorrei chiudere con lei con un giochetto, quello dei se fosse. Posso? Proviamo. Non so di che si tratta, ma proviamoci insieme. Se fosse Jorge Mendez procuratore di Ronaldo triste, come gli risolleverebbe il morale? Cercherei prima, per sollevare il morale di Ronaldo, dovrei, come dire, sollevare prima il mio, no? Per essere sorridente. Quindi chiederei a lui il numero della zia della sua morosa, perché... Quindi, data la mia età, potrei aspirare alla zia, insomma, ecco. E dopo rilassato e felice, tutte le endorfine le trasferirei alla creatura che assisto. Alla creatura. Se fosse il procuratore di Berbatov. Se fossi il procuratore, penserei a una scusa migliore di quella della moglie, che mi assomiglia a quella della moglie di Shevchenko, che doveva insegnare l'inglese. Bravo. Sempre la creatura nel senso di figlio, però stavolta. Sì. Comunque l'ha vista la moglie di Berbatov? Ma la immagino una bella di un'occhiata su internet. No, al di là di questo, un pagliaccio se ce n'è uno, Dmitry Berbatov. Un ultimo se fosse, avvocato Pasqualin, se fosse procuratore di Florenzi, che guadagna oggi 30.000 euro l'anno, giocatore della Roma? Mi bacerei le manine anzitutto per aver pescato nel mazzo, diciamo, il jolly, e poi con il tempo, piano piano, andrei a bussare a Trigoria, all'ufficio di Baldini, e direi: come la mettiamo qua? Quando gli scade il contratto? vogliamo adeguarglielo o no? Ecco, questo è banale, ma questo è quello che ovviamente farei. Grazie avvocato. Buona continuazione a voi, saluti. Prima di fermarci per la borsa, Enrico da Udine. Sì, buonasera. Buongiorno, dica. Io chiamavo per augurarmi di vedere innanzitutto un bel match tra Robertina Vinci oggi pomeriggio, sperando veramente che vinca la migliore e che la pioggia permetta di vedere la partita innanzitutto. Secondariamente volevo dire che spero proprio che vinca Roberta Vinci, non tanto per una simpatia personale quanto per una simpatia per il suo tennis, perché sì, credo proprio che Roberta Vinci sia l'ultima esponente sia a livello femminile che a livello maschile di un tennis che sta veramente scomparendo. Ne parlavamo ieri come lei, ecco, come lei sa. Ieri purtroppo non ho sentito la trasmissione. Peccato, qui tutti convocati ogni giorno alle 2, Enrico, tutti i giorni dalle 14 alle 15, perché noi parliamo di tutti gli sport e ovviamente seguo sempre. Ovviamente sul match che vedremo più tardi torneremo domani ampiamente in apertura di programma, possibilmente, perché comunque avremo una semifinalista agli US Open. A Del Piero hanno chiesto: tu puoi diventare il Pelé d'Australia? E risposta: sono vecchio ma non ricordo cosa fece Pelé. Ma dato che l'ascoltatore di prima era entrato in argomento derby americano, Errani vince oggi alle 17, pioggia permettendo, allora prima di Filippo, Enrico e Antonio sentiamo la vigilia di Sara Errani e Roberta Vinci. Io ci provo, questo è sicuramente il miglior anno della mia vita, sto giocando bene e cerco di dare il massimo sempre, questo è sicuramente un mio pregio. No, deve prima di tutto riposarsi qualche giorno, poi cercare di essere sempre concentrati, cercare di trovare motivazioni nuove che ti possano comunque aiutare a combattere anche un po' la stanchezza. Cioè, ovviamente si parla di una partita di tennis, il rapporto che... Io spero che non cambi niente, ovviamente ognuno fa la propria strada, però il rapporto e l'amicizia che ci lega non deve assolutamente cambiare se vince uno, se vince l'altro, assolutamente no, cioè l'amicizia va di là. Devo dirti che sono contenta perché comunque anche lei è arrivata nei quarti di finale e sta facendo una grande stagione. Il fatto che sia arrivata, io sono contenta. Questo è il tabellone, io non discuto, meglio giocare con quella, ormai si gioca contro, punto e basta. C'è Enrico, un ascoltatore, che manda un sms che vorrebbe spedirmi in Australia, ma magari. Filippo, provincia di Novara, buongiorno. Buongiorno Genta. Buongiorno. Mi sono sentito convocato oggi. Tutti dovete sentirvi convocati ogni giorno dalle 2 alle 3. Perché quando ho visto la prima pagina della Gazzetta stamattina, onestamente... Bye bye Ale? Sì, troppo. Ma non per quello, che ieri sera ci siamo vinti un bronzo con le Paralimpiadi della Minetti ed è passo a destra. Adesso va bene che Alex c'ha tanto da raccontare, ma anche sti ragazzi penso che... Guardi, non solo... Allora, abbiamo vinto un bronzo nei 1500 con la Minetti e oggi abbiamo vinto un oro con Assunta Legnante, l'avrà sentito prima nel giornale radio, con record mondiale, lancio del peso 12,47. E non è poco. No, 16,74, mi scusi. 16,74, 12,47, la seconda staccatissima avversaria. Due ore a nuoto, insomma, un oro in argento, se non ricordo male. Insomma. Ah. Ce n'è allora, da raccontare, Del Piero. Allora, Filippo, facciamo così. Io, Annalisa Minetti, sa cosa faccio? Gliela faccio sentire. Io voglio che oggi, come da sempre, possa io rappresentare un movimento di persone che vogliono essere ascoltate, viste e guardate come atleti, punto, nient'altro che atleti. E vorremmo in qualche modo che tanti tra gli atleti ormai già vissuti potessero dare mano a coach grandi come Andrea, come Massimo Di Marcello, come tutti i nostri, le nostre guide, e unirsi e dar possibilità ad altri ragazzi di vivere questa esperienza. Tutto è possibile e io in qualche modo oggi ne sono la dimostrazione. Questa era Annalisa Minetti. Enrico, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Le piace? Io più che una domanda volevo fare un'affermazione. Sì. Io sono tifoso juventino, ho 60 anni quindi. E sono dispiaciuto, rammaricato che Del Piero abbia accettato non di giocare a calcio per qualche anno ancora, ma di andare un tra virgolette in un circo. Non vedo. No, perché in un circo? Perché in un circo? In una nazione molto interessante in ma... cui. Sa, a 38 anni, l'ultima stagione praticamente da inattivo, con gli infortuni che ha avuto, ha fatto una scelta di vita e, insomma, io sono contento. C'è qualcuno tra gli ascoltatori che in Inghilterra ci manderebbe Giuseppe Cruciani invece di Del Piero, quindi lei avrebbe preferito un Del Piero a, che so, a Liverpool con un'altra maglia prestigiosa? Ma anche se non in Liverpool, ma anche in una squadra di seconda fascia, anche magari se non era lì. Io mi ricordo Del Piero di averlo visto nella finale della Coppa Carnevale a Viareggio contro la Trentina. Una squadra di seconda fascia sarebbe stata una cosa di una tristezza infinita, mi perdoni, perché un conto è decidere di sentirsi ancora giocatore per una stagione, andare al Liverpool che l'ha cercato nelle ultime ore, lo sappiamo bene. Si parlava del Southampton, però in una squadra di seconda fascia, vederlo giocare a Sion, per esempio, a me che non sono nemmeno un del Pieriano di ferro, avrebbe riempito di tristezza. Sono molto contento invece della scelta che ha fatto dal punto di vista personale, perché, come si diceva prima con Pasqualin, rimane fedele al suo personaggio, cioè un uomo curioso del mondo, quindi magari meno calcio, magari qualcosa di interessante come l'essere il seme per un così, per una crescita del calcio australiano, ma 100.000 volte meglio. 800 24 00 24 perché siete tutti convocati come Antonio da Piacenza. Sì, buonasera Carlo, grazie di avermi convocato. A proposito delle Paralimpiadi vorrei fare una riflessione. Invidio questi ragazzi perché io sono stato in un certo senso un precursore, perché ho partecipato a uno dei primissimi campionati italiani di atletica leggera per disabili, no? In quanto non vedente, e quindi li invidio perché sono arrivati veramente a livelli stratosferici rispetto al pionerismo al quale partecipavo. Ma magari più che invidia, Antonio, forse è più simpatico usare la parola ammirazione. Ammirazione, no, invidia nel senso più buono che si possa immaginare, perché vorrei essere tra loro, certo. In questo senso, certo. E l'età non me lo permette. Certo. Un pensiero su Del Piero, io che sono allergico alla juventinità, proprio detesto tutto ciò che è Juventus, però non si possono non salvare queste figure meravigliose tipo Del Piero, tipo Scirea, tipo Franco Baresi, tipo Beppe Bergomi. Scirea, vabbè, povero ha fatto la fine che ha fatto. Cosa vuol dire? Sì. Cosa intende per salvare? Salvare nel senso che sono delle figure che vanno al di là del tifo, delle squadre. Cioè io che, come dicevo, non sono juventino, anzi sono assolutamente anti-juventino. Però come posso non ammirare Alex Del Piero? Alex Del Piero è l'esempio che ha dato a tutti quanti l'amore per il calcio, quello pulito, quello vero. Poi chiaramente ha cercato di trarne i vantaggi, ma secondo me, a differenza di altri, vedi Ibrahimovic, in maniera lecita. Non è stato un mercenario, è stato attaccato alla maglia, alla bandiera. Questo certamente, anche se questo non vuol dire che una società come la Juventus abbia anche il diritto di fare determinate scelte. Io non lo so quali siano i rapporti personali di Del Piero con la dirigenza juventina, non so se ci sia un accordo per il futuro, come d'altra parte Pasqualin prima ha detto, lo vedo tra due anni come dirigente, dove nella Juventus, magari c'è anche questo tipo di accordo già preso. Io credo però che un club professionistico debba essere libero di fare le sue scelte in maniera del tutto professionale. Quindi, quello che volevo sottolineare, Carlo, mi perdoni, non è tanto il fatto, quello che lei dice è perfetto e inappuntabile, però volevo sottolineare sottolineare il fatto che ci sono tante persone come me che, pur detestando la Juventus, sportivamente parlando, non possono non ammirare una figura come Alex Del Piero. No, ma, ma certamente, io non detesto la Juventus come lei, sono abbastanza indifferente, non sono neanche un Del Pieriano di ferro, dicevo prima, però è un uomo che ammiro, è un uomo molto intelligente ed è un uomo che ha fatto, secondo me, una scelta intelligente. Io la ringrazio, Luca, provincia di Teramo. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Io appartengo alla minoranza di tifosi juventini, insomma, detestati dal signore che ci ha preceduto. Allora, io sono juventino, quindi ricordo che ho vissuto come un dramma l'abbandono di Platini. L'evento sta fatto a meno di Zidane, di Sivori, di Boniperti. Quindi, con tutto il rispetto, farà meno anche di Del Piero. Sì, certamente. Solo questo volevo dire. E la vedo dura come dirigente, perché fino a quando ci sarà Agnelli non credo che... Ma questo non... Grazie, arrivederci. Questo non lo so, non posso saperlo, non posso sapere quali rapporti ci siano, se ci siano degli accordi. Mi limito a, così, a ripercorrere mentalmente le tappe di questa vicenda. Del Piero, licenziato un anno fa, come sapete, poco meno, in maniera piuttosto inelegante dal club, utilizzato spesso come tappabuchi da Antonio Conte. Lui non ha mai detto una parola, ma ha dimostrato... Io ho ammirato Del Piero più in quest'ultima stagione per il modo in cui si è comportato che in tutto il resto della sua meravigliosa carriera, perché è difficile per uno così essere chiamato da un allenatore con cui hai giocato, un allenatore con cui dovrebbe esserci un certo rapporto, a tre minuti dalla fine per entrare nel tempo di recupero come l'ultimo dei ragazzini. Insieme, subito, mi devo abituare, Carmelo Lauricella, abbi pazienza, un sacco di messaggi. Da Fiorentino, Doc, sono commosso per Del Piero, ultima bandiera e vero uomo con la U, volutamente maiuscolo del nostro calcio, oggi già più povero Gianni da Treviso. Vabbè, abbandoniamoci anche un po' di demagogia. Intanto saluto Leo Turrini, penna illustre di QN e del motorismo italiano. Ciao Leo. Ciao a voi, ciao. Vuoi piangere un po' anche tu per l'addio di Del Piero? Guarda, io sono interista, però mi sarebbe piaciuto moltissimo se Del Piero avesse chiuso una carriera con la maglia nerazzurra. Ne avevo parlato anche con Moratti. Ti dirò che credo che ci abbiano anche provato, però penso che Del Piero, giustamente, dopo una vita alla Juve, abbia deciso di vivere gli ultimi scampoli della sua esperienza di campione in un contesto estero, insomma, lontano dal nostro paese. Però sarebbe stato bello, forse avrebbe anche aiutato un po' a raffreddare certe tensioni sempre troppo bollenti che ci sono. Sì, però Leo, tu sei stato in Australia, perché lì si corre diverse volte, insomma, puoi capire come uno possa anche fare una scelta di vita, che è una scelta di vita vera di questo tipo. Sì, beh, allora guarda, io penso, avendoci vissuto per periodi anche prolungati, da Olimpiadi di Sydney, eccetera, che l'Australia sia il più bel paese del mondo. Se uno ha la possibilità di andarci a stare, non se ne pente. Certo. Dopodiché è anche vero che se parliamo solo di pallone, calcisticamente l'Australia è una realtà che non esiste. Ecco, questo un po' dispiace, perché se Del Piero avesse detto io smetto di giocare, stop, ok. Se avesse detto, non so, vado in Premier League o in una squadra spagnola o tedesca, anche... saperlo in un campionato che francamente, insomma, a livello tecnico non esiste, ecco, questo è un po' un elemento di rammarico, perché parliamo di magari va a divertirsi a 1.6 l'anno per due anni, insomma. Come giocare a calcetto con gli amici, magari. Sono sicuro che i soldi glieli danno, cioè non ci va. Dai, perché a volte quando io sento parlare delle scelte di vita, no? Che dicono non solo nel calcio, ma faccio questa scelta perché la mia famiglia, i bambini potranno imparare l'inglese. Sono in realtà tutte sciocchezze, questo è evidente. Lui, ovviamente, fa bene andare a Sydney, è, secondo me, ripeto, la più bella città del mondo. gli danno anche uno stipendio che tutti noi, credo, ci sogneremo per tutta la vita, naturalmente. Bravo, e quindi insomma. E quindi viva Del Piero. Io voglio parlare con te di voglio parlare con te invece di piloti e pirati. Quali primi e quali secondi? Ma dunque, allora, guarda, noi siamo reduci da una gara in Belgio che ci ha, tra virgolette, regalato questo episodio, la partenza devastante. Insomma, qui bisogna fare un ragionamento. Allora, lo diciamo per chi magari si è convinto che l'automobilismo, le competizioni motoristiche in generale non implichino più il rischio estremo. Ecco, no, guardate, vi sbagliate, perché domenica avete visto tutti la Lotus di questo Grosjean è passata a 44 centimetri dal casco di Alonso. Ma pilota o pirata? No, io onestamente penso che questo Grosjean sia un caso clinico, non solo lui, e mi spiego. Però, ma ce ne sono tanti adesso in Formula 1, c'è tanta gente che non sa guidare. Beh, diciamo, questo Maldonado, il pupillo di Chavez, il presidente del Petro Venezuela, è un altro che ogni Gran Premio quasi ne combina uno. Debbono essere, secondo me, non voglio mancare di rispetto alla generazione delle mie figlie, ma tutti figli appunto di questa era di Twitter, Facebook, la concitazione, la frenesia, lo sono anche al volante. Tu pensa, questo Maldonado, poi dopo ti dico una roba su Grosjean, 20 giorni fa l'hanno chiamato a Caracas a fare un'esibizione in piazza con la Williams, presenta appunto il presidente Chavez, che tu ci credo o no, lui è riuscito ad andare a sbattere una rotonda. Ma io ci credo altro che. Ha distrutto la Williams e hanno dovuto sospendere la parata, hai capito? Cioè, qui c'è qualche cosa che non funziona, banalmente detto, nel cervello di questi giovanotti. Anche a proposito di Grosjean, il pirata di domenica, per usare il tuo termine, abbiamo fatto 12 Gran Premi, questo è stato coinvolto in 7 incidenti in partenza. Una domanda te la fai. Anche poi due. Dico, io vengo dai tempi di Gilles, quindi adoravo Villeneuve quando ero ragazzino, e poi Mansell, il pilota. Beh, ma Leo, era gente che sapeva guidare, che magari aveva un pelo alto così sullo stomaco, no, che infatti, buttava infatti il cuore oltre l'ostacolo, se vogliamo fare quindi, i banalotti. Secondo me, io prima ti ho fatto il discorso, Twitter, Facebook, videogiochi. Imparano lì, PlayStation bravo, e via. Bravo. C'è un po' troppa gente in pista che confonde la guida reale con la PlayStation. Questo secondo me è un grosso problema. Domenica è andata bene, perché ti dico, poteva veramente succedere qualche cosa di terribile. Senti, invece, domenica prossima Ferrari a Monza per il Mondiale, come ai tempi belli? Beh sì, allora, Fernando ci arriva da leader del campionato, nonostante la disavventura del Belgio. Con il collo ancora attaccato alle spalle, per fortuna. Bravo. Credo che quest'anno la Ferrari abbia fatto dei miracoli, perché io c'ero in Australia quando cominciò il campionato e veramente era, se non la peggior monoposto tra quelle iscritte al campionato, una delle peggiori. Quindi sono stati bravissimi. Il pilota è formidabile, ci ha messo molto del suo, ma dobbiamo dire che anche gli ingegneri, i meccanici di Maranello hanno dato una grande prova di vitalità. Dopodiché le gare sono ancora tante, io vedo una McLaren che si è rimessa ad andare fortissimo, per cui se mi chiedi un pronostico, nonostante il vantaggio che Alonso ha, non sono ottimista, perché ci sono ancora tante gare. Sai, con questa roba della globalizzazione che voi a Radio 24 ci spiegate molto bene questi giorni, insomma, il campionato non finisce mai, sono 20 tappe, una volta erano massimo 14. Lo so, però la Ferrari secondo me ha preso l'abbrivio giusto, quindi io non sposo, anche se fai tutti gli scongiuri che vuoi, non ci vedono, io non sposo la tua linea. Secondo me Alonso, per il cammino che ha fatto e con le difficoltà che ha superato, lo vedo là in cima. Beh, ma diciamo Monza che sarà importante. Certamente se lo meriterebbe. Assicuro, anche perché lui, piloti come lui non ce ne sono. Se lo meriterebbe lui, se lo meriterebbe la scuderia. Però ripeto, penso solo che dopo Monza abbiamo ancora altre 7 gare, praticamente un intero campionato. Sì. Può ancora succedere di tutto. Grazie Leo, alla prossima. Grazie a voi, ciao. Un abbraccio, ciao. Grazie. E adesso di nuovo ascoltatori, abbiamo ancora un paio di minuti o tre. Luca da Napoli, Giovanni da Modena. Luca, buongiorno. Salve, buon pomeriggio. Dica. Ma c'è una polemica in atto attualmente, almeno a Napoli, però pure un po' a livello nazionale, sul caso del Manterboso del San Paolo. Ma sì, sembra una cosa così faraonica questa situazione che non vedo lo scandalo. Certo, probabilmente c'è stato, come dice il Presidente, un virus che ha attecchito sull'erba. Bisogna fare qualcosa, ma si è giocato anche ma si è giocato in una palude. Come si fa a giocare su un campo così? Io ci credo. Ma per l'amor del cielo, assolutamente. Quindi io sono d'accordo con te. Però vedo che subito si sono buttati a pesce, mettiamo l'erba sintetica. No, a pesce, si sono buttati su un campo su cui non si poteva giocare a pallone. Se mettiamo l'erba sintetica, mettiamo quella naturale, mi sembra che a Napoli grossi problemi di clima non ce ne siano. L'unica cosa che dico è che un campo così è impresentabile e improponibile ad ogni livello. Quindi, adesso pare che sistemeranno la questione a stretto giro di posta, quindi con questa sosta e la ripresa del campionato sarà tutto regolare, però mi sorprende abbastanza in Italia all'inizio della stagione vedere un campo di quel tipo. Ieri abbiamo fatto sentire il campo di grano di Lucio Battisti, ma altro che campo di grano, mi vengono altre parole, Luca. Grazie, Giovanni Modena. Buonasera, io volevo rendere omaggio al grande giocatore e uomo Alex Del Piero. Non sono juventino, sono un cagliaritano, ma come dal nostro precedente Gigi Riva, che fu una bandiera per noi e che non cadde nel tranello delle sirene per volare via alla Juve a suo tempo, sono pochi uomini sono ancora così, e Alex Del Piero è uno di questi. E da personaggio schivo come ha fatto bene ad andare dall'altra parte del globo, sì, perché ritengo che sia una persona coerente con quello che ha fatto e che continuerà a fare probabilmente. Ma sì, è così, insomma, ha fatto una scelta non calcistica ma di un altro tipo, e ha fatto una scelta molto delpieriana, come abbiamo già detto. Andiamo con Marco, provincia di Varese. Sì, salve, Marco, tifoso interista, e voglio rendere, su Del Piero secondo me ha fatto un'ottima scelta di vita e probabilmente molto invidiabile, perché in tanti vorrebbero fare una scelta di vita del genere e lui ha potuto farla. Sì, certo. Certo, lui ha potuto farla, guadagnerà anche non pochi soldi, perché insomma sì, sicuramente 3 milioni e 2 per due stagioni, poi diventa più facile farla, però voglio dire, siccome il calcio a certi livelli credo che per lui fosse finito, ha fatto una scelta molto invidiabile, secondo me. Secondo me ha tenuto conto anche di quello, cioè solo Del Piero e il suo entourage conosce esattamente le condizioni fisiche del giocatore e quello che il giocatore può ancora dare. D'altra parte l'ha detto anche lui prima, no? Ha detto anche lui: ho dato tutto e più di tutto, evidentemente. Nell'inchiostrare quel contratto si è tenuto conto anche di questo. Chiudo con grazie Marco da provincia di Varese, con Renata sul nostro Twitter. Io vivo a Sydney perché i miei figli vogliono stare qui, ma se potessi partirei immediatamente. Vi lascio con questo messaggio un po' inquietante di Renata. Naturalmente ci troviamo qui domani alla solita ora, dalle 14 alle 15, dopo aver visto il derby d'America tra Sara Errani e Roberta Vinci, e dopo aver così capito anche cosa succederà magari a Madrid, dove Ronaldo è sempre più triste. Un consiglio a Cristiano Ronaldo: perché non va a Sydney anche lui? Franco Piantalini in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Ciao a tutti, a domani.